In diretta dalla stazione saldante del GL Como va ora in onda quasi una puntata estiva di Opencast Alfa. Saldate, saldiamo, salderemo, salderanno, saldessero, saldettero. Manca cosa adesso c'è? Ah, ecco, dicevo, io mi sentivo un po' solo. È Opencast Alfa, una puntata come un'altra. No, non è come un'altra, questa è diversa, abbiamo più problemi tecnici. Sì. No, ti assicuro che è come un'altra. E anche bevuto poco. Esatto, è una puntata in cui parleremo di notizie, parleremo di cose, ma adesso non stiamo qui a pettinare le bambole. È una puntata in cui il nostro buon Davide è carico e pieno di energia e di fantasia e di ilarità. Sì. Ha un furgone carico di ilarità qua fuori. E di schedine da saldare. Esatto, è fissa, c'è questa fissa della saldatura. Io la devo dire e la dico, faccio la marchetta. No, voi uomini e donne che volete saldare e imparare a saldare i componenti elettronici, ricordatevi che a settembre ci sarà il corso di saldatura del GL Como. Il corso di saldatura del GL Como. Visto? Dovremmo fare uno spot. Sì. Da buttare dentro ogni tanto. E oggi mi sono messo lì a saldare, ma non sono più bravo. Franco, ma non devi inventarti così. Lo sai cosa c'è a settembre? Cosa c'è? Il corso di saldatura del GL Como. Corro in edicola. Onta. Va bene. Secondo me ci fanno causa. Esatto. Esatto. Gli edicolati. Va bene, una puntata di Opencast, il podcast tecnologico disimpegnato del gruppo Linux di Como, che però mi è arrivata adesso un messaggio direttamente dal gruppo Linux di Como che si dissocia. Diciamo che per ora c'è stato il disimpegnato, sì. Il GL Como. No, ma è anche tecnologico. Perché? Ah, onda! Perché abbiamo avuto problemi. Ah, ecco. Tecnologici. È vero. Va bene. Allora, notizie? Vuoi partire subito, bruciarti subito la tua, l'unica che hai? No, perché non ne ho. No, sì, una. Quale? Aspetta che te lo dico poi. Mimamelo. Aspetta. Mimamelo. Questo. Quello. Questo. Quello. E questo. Quello. Allora, mate in backport. Esatto, bravo. Però non so più niente, basta, questo è quello che so. Allora, Debian ha deciso che è ora di testare questo bellissimo sistema desktop environment, che è un Fortinet GNOME 2. Desktop, quella roba lì. Quella lì. In poche parole, molti dei nostri ascoltatoni hanno usato la Mint che distribuivamo in giro e quella che circola anche in rete, ma non essendo distribuita da noi non è quella ufficiale. E in questa distribuzione c'era un bellissimo desktop environment che si chiama Mate, e Debian ha deciso di testarlo, diciamo che si può testare sulla Debian con, esatto, diciamo facendo un piccolo accrocchietto, nel senso metti un repository e puoi installartelo anche su una stable e funziona bene. Adesso Debian ci spiega, adesso Elena ci spiega cosa sono i backport di Debian. Non sono un accrocchietto, ma un repository ufficialmente supportato da Debian. Quindi che, c'è il signor come Debian, è noto al repository stable, in cui non vengono fatti aggiornamenti se non per la per correggere bug di sicurezza, ma dato che di tanto in tanto alcuni programmi possono essere utili, più aggiornati, a questo repository in cui una selezione di programmi disponibili in Debian sono disponibili la versione recente anche per l'ultima versione stable. Quindi si può comunque utilizzare questo software un po' più moderno anche su una Debian stable senza grosse preoccupazioni, perché comunque è controllato quello che verrà installato nel vostro sistema. Ma sempre parlando di Debian, parliamo di un gradito ritorno, vogliamo dirlo così? Stiamo parlando di glibc, la libreria che rientra in Debian. Dove era andata? Era uscita, è andata a comprare le sigarette. Ah, lo sapevo. Esatto. No, che hanno litigato, hanno detto io con te non ci esco più, vado... Tu sei una libreria facile. Esatto. No. A me sembrava esattamente il contrario. Ah, Debian che è una distribuzione facile. No, che fosse glibc ad essere una libreria difficile. Che persone cattive. E quindi? Allora, uscendo da queste analogie, in realtà quello che è successo è che qualche anno fa la glibc aveva un maintainer che era di gusti difficili, diciamo così. Fondamentalmente gli interessava soltanto se funzionava sul suo PC. E io il gelato pistacchio non lo mangio. E io la pasta la voglio soltanto col sugo. Era uno che non cambiava mai il PC. Per cui nel senso funzionava il suo, basta. No, in realtà bastava che il processore fosse Intel, poi per il resto era già esatto. Qualcosa. Sì, diciamo che qualche processore Intel era supportato. Qualsiasi altro processore sostanzialmente diceva non mi interessa, noi non mi piace, non lo supportiamo ufficialmente. Ma a livello comunque del mondo nessuno lo supporta, ce l'hai solo te. Una cosa che è stata un po' complicata, fra parentesi, ai tempi era stipendiato da Red Hat, che giusto in quei momenti stava per uscire con Fedora per ARM. E ancora lui non capiva che forse era il caso di supportare altre piattaforme, come per esempio come ARM piuttosto che PowerPC, piuttosto adesso che altro. Cioè, sono passati perché è morto di fame questo, quindi è stato licenziato. No, ha cambiato lavoro. Ma il gelataio. Questo è interessante, non si sa bene, probabilmente ha cambiato lavoro lui, però. Quindi, ma in tutto questo tempo su Debian cos'è che c'era? Non c'era un buco. Così, niente. Mancava la libreria di sistema? No, in realtà c'era, perché non erano gli unici con questo problema. Fondamentalmente una serie di società che si occupavano di librerie. No, si occupavano di computer embedded. Ah, pensavo tipo l'IKEA. Sì, esatto. La Billy. C'era la Billy in Debian. Ecco perché l'avevo già vista. Sono Billy. E non la devi neanche colorare. Lib Billy. Se era gentula devi anche montare. Allora. Va bene. Con le brugole della gentù. Sì, le brugoline. Ma che versione di brugola? Allora. Allora. Cos'è che usavano? Usavano Embedded glibc. Fondamentalmente embedded. Queste società che su programma di computer embedded hanno detto anche noi ci siamo rotti le scatole ci siamo rotti gli embed, sì anche, e hanno deciso di fare un fork di glibc con aggiunte le patch per gestire i vari processori. Soprattutto in realtà la glibc già supportava gli altri processori, anche se non in maniera ufficiale. Il problema è che quando c'era un baco che andava risolto, se era, compariva soltanto su processori diversi da Intel, non veniva risolto. Il maintainer sostanzialmente l'ignorava. Simpatico. E per cui c'è stato questo fork di glibc, di cui poi Debian ha fatto uso fino a poco tempo fa. E quindi adesso si ritorna sotto glibc, perché nel frattempo il vecchio maintainer se n'è andato. Gli altri maintainer hanno detto: beh sì, forse sarebbe il caso di avere una gestione un po' più aperta, che accetti un po' più i contributi da altre parti, eccetera eccetera. Ma scusa, ma se questo fork andava bene? Perché il fork ha detto: noi esistiamo solo per prendere le patch che il maintainer non voleva. Nel momento in cui se n'è andato ha detto: vabbè, le patch sono queste, gran parte delle patch di glibc sono già in glibc, le altre pian piano entreranno. Ok, ma per noi modesti utenti Debian desktop, per dire, cioè PC, per mia mamma, a noi ci cambia. Al PC non è cambiato nulla. Perché io stavo pensando, io non so che tipo di billi ho nel mio sistema. Se è una Billy 86, una Billy 64. Cioè, capisci? Io non capisco questo. Come faccio io ad aggiornare il glibc? Come faccio? Dimmi. Ti arriva l'aggiornamento quando fai upget. Ah, quindi update. Non faccio niente. Non devi fare niente. Sì, però se non sei a casa ti trovi il bigliettino che sono passati, devi andare a ritirarli. Sì. E se il posto è lontano, non è che fanno una seconda consegna. No, non c'hanno voglia. Ah. Spesso anche se sei in casa devi andarlo a ritirare tu. Ok. Capita. Io volevo provare questi Debian erano un po' bastardi. Io volevo provare a come si dire, a... No, con le parole tue. Comprale. Compro una cane. Posso comprare cane? Puoi usare cane. Volevo provare a cane. Funziona, no, eh. Funziona. No, volevo proporre di sostituire / lib con / billy. Si potrebbe. Si potrebbe, dici che funziona? Sì, in fondo aggiungi una B, una Y, cambi due cose, esatto. Dai. In fondo hanno già fatto tutte le modifiche tra / bin, / user, / bin. Esatto, cioè, allora io faccio anche... potremmo fare questa proposta. / billy. / billy. Esatto. E poi troviamo anche tutte le altre directory, un corrispondente. Per il puff. Sì, esatto. Ma questo sarà un argomento poi di un'altra... Facciamo uno speciale solo sui puff. Dobbiamo essere più ubriachi. Per esatto. Io direi, facciamo una piccola pausa musicale. Ma era bello il pezzo d'inizio. Ti è piaciuto il pezzo d'inizio? Sì. Guarda, il pezzo d'inizio era un disco di un gruppo che non abbiamo mai messo. Gli Emerald Park. Mai messo. Il brano si intitolava At the Mall. Ma in realtà... sono quelli che l'hanno fatta live qui. Sì, sono venuti proprio qui a suonare. Infatti io dicevo, ma chi sono questi qui? Dalla Svezia sono venuti. Infatti io mi chiedevo. Esatto. E invece bravi ragazzi. Il prossimo brano invece sporcano, sono ma... Ten Code. I Ten Code no, sono più bravi, perché sporcano meno. Il brano è un pochino più, diciamo, rocchettaro. Ma perché... oggi è nelle nostre corde. È un po' nelle nostre corde, sì. E si intitola Il mantello di Superman. Che vuoi mettere? Yeah. la siete cercata, eh. E dopo la musica ambient dei Ten Code siamo tornati. Chill out. Sì, siamo tornati per ricordarvi di ehi, dai un bacio alla tua donna. Cos'è? È la musica ambient che mi mette questa cosa qui. Ah, cioè tu quando senti quella musica lì ti viene ehi. Sì, però mi fai un po' senso, eh? Va bene. Andiamo avanti, siamo arrivati... Ma da dove arriva sta musica? Questa musica arriva tutta da Jamendo, il sito di riferimento per la musica libera in Creative Commons. Il nostro spacciatore preferito. Esatto, il nostro pusher di musica libera preferito. Vi ricordiamo che tutti i pezzi sono disponibili da scaricare, secondo me. Tra l'altro... Due gruppi di Jamendo sono andati a European Music Awards. Che sì, che è un contest che viene fatto online. Sì, fino all'ultima sera vengono selezionati questi gruppi online e viene effettuato questo concertone in quel di Parigi. È stato fatto il 30. Io mi ricordo un gruppo greco. Sì. Che chiameremo gli Tzatziki. Scusa. E poi ce n'era un altro che però non mi ricordo. Ok, vedo che sei preparatissimo su sì, questo. Sì, mi è arrivata una mail. Complimenti. Mi è arrivata una mail con scritto: supporta anche te i nostri artisti. Sì, bella. Sì, anche a me è arrivata. Bello, mi è piaciuta questa cosa. Volevo dirla perché a me mi ci piace. Io volevo guardare il concerto che è stato trasmesso in streaming a fine mese scorso, ma non sono riuscito. Ho avuto altro da fare. Sì, il cagotto. Sì. Le cavallette. Esatto, l'inondazione non è stata colpa mia. Passiamo agli argomenti, quelli un pochino più così. Un po' più. Frivoli. Così. Avrei detto frivoli. Io no. È notizia di questi ultimi giorni che è stato. Ma se io ascolto il podcast su www.gl.com.com.com. Dov'è? Quanti punti hai messo? www.gl. Facciamo che ci pensi e poi ce lo dici, ok? Anzi, facciamo continuo che con le scrivi qua sul foglietto, poi te lo tieni. Allora, è notizia di questi ultimi giorni che è stato, diciamo, diffuso il codice sorgente. Rilasciato. No, è stato proprio diffuso il codice sorgente di uno degli strumenti utilizzati dalla NCA, l'associazione, no, non è associazione. L'agenzia che non è. Ah, no, agenzia, giusto. La No Such Agency. Ok, la No. No Such Agency. Ah, ok. Che non, l'agenzia che non esiste. Non esiste. Quindi, che usa, comunque è uno strumento che usa per tracciare gli utenti sull'internet. Lo stetoscopio. Esatto. È venuto fuori il bicchiere appoggiato sulla parete. Dai, parliamo di tecnologia qua. Oppure avrei detto la supposta effervescenza. Anche. Sì. Anche quella pralinata. Sì. Allora. L'importante è lasciare la traccia. Ok, cosa è venuto fuori leggendo questo codice? Che sono stati catalogati come estremisti le persone che su internet sono andate a cercare informazioni su Thor o il dio vichingo. No, senza H, T-O-R. Ah. Oppure che sono andati sul sito di Linux Journal a cercare in particolare l'articolo che parlava sempre di Thor senza H, T-O-R. Quindi noi, sì, poi Matteo, sì, noi, esatto, ma noi inteso come più ampio, non noi e basta. Aspetta, Linux Journal è una rivista abbastanza famosa all'interno dell'ambiente tecnologico no, ci generale. Sono delle persone che conosco che sono tecnologiche ma che quelle cose lì che scarichi dall'internet non le fanno. Comunque c'è anche un sacco di gente che avendo sentito parlare di Thor sono andati anche solo a leggere il sito per capire Bill, cos'è Bill. E sono stati tracciati e tacciati di secondo estremismo. Secondo me il Bill è andato a controllare il Bill quello del Windows 95. Ah, può essere, sì. Per vedere se riusciva a sistemare i suoi bachi con Windows. Fatto sta, voleva un posto dove nascondere Windows XP. Esatto. La cosa interessante è che questa rivelazione, oltre a mettere un pochino la pelle d'oca, diciamo, far venire un po' di pelle d'oca, ha scatenato le più svariate reazioni. Una di queste è il partito pirata lussemburghese, esatto. Chi? Il partito pirata del Lussemburgo. Che, cioè, quanti sono? 7. Stanno tutti su una nave. Ah. E, ma piccola. Sì. Una canoa. Fatto sta che hanno lanciato questa iniziativa, hanno messo acquistabile su internet questa maglietta con scritto Torrorist, con la famosa cipolla simbolo di Thor al posto della O, i cui ricavati, parte dei ricavati verranno devoluti allo sviluppo di Thor. Ah, avrei detto, non lo so, una serata in birreria. Sì, quella, sì. Quella la facciamo comunque, non c'è. Okay. Sono lussemburghesi, non ne hanno bisogno, esatto, di raccogliere, cioè, fondi. Per la birra. Esatto. Fatto sta che la maglietta è molto interessante. Stavamo pensando di regalartene una per Natale. Grazie. Prego. E con quello verrai segnalato. Chiaro, su, mettiamo il tuo indirizzo, per cui. Salverà tutti i siti dove navighi. No, ma devo dire la verità che sono abbastanza... Nel senso, quando ho sentito questa notizia io... Ho dormito abbastanza tranquillo quella notte. Sì. Sì, perché? Me ne frega, nel senso. Cioè... E comunque la conseguenza dell'entrare su questa lista è che i dati che l'NSA raccoglie di tutte le comunicazioni che ti coinvolgono, sulle quali loro riescono a mettere le mani, vengono conservati. Oh mio Dio. Ad uso futuro. Tutte, anche WhatsApp. No, ma non è tanto quello che mi preoccupa. Anche le foto di Snapchat. Ma non è tanto quello che mi preoccupa. Anche le visite su YouPorn. No! Sì, sì, sì. Siamo arrivati al nodo della questione. Assassini! Delinquenti! Se poi hai cercato. Magistratura corrotta! Poi cos'è che devo dire? Niente, che ce la siamo un po' cercata. Ve la siete cercata? Non so, allora diciamo così. Giusto per farci rintracciare, Israele. Così. Basta. Siamo segnalati. Cioè, neanche avessi detto bomba per dire. Allora, cacchio. Questa notizia è una bomba, intendevo, certo. Presidente, il nostro presidente. Il nostro presidente, esatto, qui sta. Voleva dire, esatto. Ma allora. Niente. Va bene, quindi sappiate, fate attenzione. Non cercate Thor. D'ora in poi lo chiameremo. Se no, se lo cercate, però fatelo una volta e poi usatelo. No, cioè. Io stavo pensando di... Potremmo decidere che d'ora in poi si chiama Cipollotto. Cipollotto. Quindi, ah, così per sviare. Cipollotto. Esatto, Cipollotto. Quindi puoi dire, ho installato Cipollotto, sto usando Cipollotto. Ti ho trovato sul Cipollotto, ma in chat non sono sicuro che tu sia tu nel Cipollotto. Per esempio, Quindi io parlo. Pensa, se tu sei tu, rispondimi. Pensa, potresti che io... usare GPG per scambiarti un messaggio criptato e firmato. Ma aspetta, però anche GPG secondo me rischia di entrare nella lista. Sì. GPG. Mi sa di sì. Bisogna quindi trovare Rabarbaro. Gippi. Rabarbaro, va bene. Quindi, ti ho mandato la mia chiave Rabarbaro, così quando ci troviamo sul Cipollotto, esatto, non ci trovano. Sappi comunque che io ho un servizio nascosto nel Cipollotto. E lo immaginavo. Va bene, abbiamo concluso. Pensa se trovano un baco nel Cipollotto. Capita. Sì, sì. Ma perché nel senso saranno 6 mesi che è lì che mi guarda. Sì. Non vuol dire, non lo mangi. Va bene, chiudiamo l'angolo delle notizie un po' così e passiamo all'angolo delle notizie un po' cos'ha. Ah, ecco. Parliamo di un progettino che abbiamo incrociato sull'internet, uno di quei progettini che potreste farvi a casa se aveste una stampante 3D. Non ce l'avete. Pazienza. O una casa. Stiamo parlando di un progetto abbastanza complicato che comporta il crearsi in casa un clone del Game Boy. Esattamente. Allora... Appunto, sull'internet abbiamo trovato questo articolo che parlava di una tizia che ha costruito un case. Che già la notizia è una tizia. Esatto. Era a casa, non sapeva cosa fare. Con questa stampante 3D, ho finito i didol. Adesso andiamo sul cattivo. Le torte non vengono. Non esatto. Quindi, vai. Ha preso un Raspberry Pi. Una schedina. Vabbè, open Un Raspberry. Chi vuoi che non sappia cos'è un Raspberry? Io ho sempre chiamato P. Raspberry P. Fa tanto telefilm tutta la Raspberry Pi. Ecco, e perché non possiamo mandare la sigla di Raspberry Pi? Però potremmo farla. Vai, tanto, aspetta, aspetta. No, non la so fare. Vai con la sigla di Raspberry Pi. Non la so fare. Come non la sai fare? Come fa la sigla di Raspberry Pi? Secondo te me lo ricorda? Cercala su internet. Sì, che l'ho sentita poco tempo fa. Vabbè, se ci viene in mente ve la facciamo sentire. Vai. Ok, dicevamo. Gli ingredienti sono una stampante 3D. Chi non ha una stampante 3D a casa? Poi un Raspberry Pi o P se vi piace. Poi uno schermo da 2,8 pollici. Sì. Quello si recupera. Un controller Super Nintendo. Sì. E una batteria e un po' di fili. Sì, fondamentalmente un po' di fili, poi c'è una schedina che serve per convertire dalla 3-7 della batteria e cosa, eccetera, eccetera. Fatto sta che? Fatto sta che si possono scaricare i file per stampare il case, ci sono le istruzioni su come tagliuzzare il controller del Super Nintendo per che mettere i piace tagliuzzare. Usare il flessibile ne con inclinazione 45,2 gradi. In realtà qua dicono, mi raccomando, quando usate i power tools mettete qualcosa per proteggere gli occhi. Ma sono bravi allora, sì, non sì, come noi così. Metteteli vicino alla faccia perché esatto, se no non il taglio crema, vi va sverso. Tenetelo d'occhio, con l'occhio buono. E di bloccare poi anche il PCB quando lo si taglia in maniera sicura prima che partino pezzi, sai, non lo queste so cose. Fate prima un foro, tenetelo un dado del 12 poi pensavo tienilo in mano e poi col Dremel lo tagli, poi vabbè stai attento a non tagliarti il dito, come ho sempre fatto io. Sì, e si vede. Ok, la cosa curiosa è che ci sono ancora tutte le dita. Sì, però, ma non sono tutte sue. È per quello che mi chiamate il pirata. Per questo ti chiamiamo il biondo. Forse lo chiamavamo Igor. Esatto. Va bene, quindi dopo tutto questo. Ma scusa, il software? Nel senso, esatto. Il software. Io ho fatto la mia scatolina rischiando l'amputazione della mano e di un piede. Poi vi spiego perché il piede. Ci hai messo dentro un Raspberry, ci hai messo il controller in posizione in modo che i tastini fossero in corrispondenza. C'è stato solo un piccolo problema. Il monitor l'ho montato al contrario. E non si vedeva niente. Si vede dentro la scatola. Perché poi ti spiego come devi fare. Ma pensavo hai messo la sua bella batteria. Sì, sì, sì. Col sì, carica batteria. Avevo quella a casa, quella del motorino, ho usato quella lì. Perfetto, così dura di più ed è sì, più portabile. Sì, sì, sì, sì. Quindi al primo avvio dovremmo decidere che software mettere. Sostanzialmente l'idea è che ti dicono ci installi sopra Linux, ovviamente, visto che funziona solo con Linux, e di installarci un software a caso di emulazione a caso tipo il MAME. Per esempio, a caso tipo il MAME vuol dire che tipo hai un Game Boy con su 1000.000 giochi. Ma, esatto, ma le ROM sono open. Beh, però puoi esistono delle ROM che sono, tipo 3 o 4 3 o 4 sì, sì. Però puoi giocare anche, non so, a... cioè c'è Cadillac and Dinosaurs, cioè nel senso chi è che si mette però puoi giocare farlo? Puoi giocare, che so, a Frozen Bubble, ecco, puoi giocare a Super Tux, puoi giocare a Penguins. Ma scusa, se io ci metto il Nano, nel senso, posso scrivere puoi anche scriverci, cose? Sì, non è comodo. Anche perché devi ricordarti che hai un D-pad, quindi un joystick che si usa a destra, e i bottoni A e B, e altri quattro bottoni. Nel senso, sono tanti. Sono tantissimi. Se devi scrivere un poema di che usa solo quattro lettere dell'alfabeto, sì. Ma no, ma lui fa venire fuori la tastierina e sceglie. Ah, ok. Ho scritto una specie di T9 però con solo 4 bottoni. G-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z. Dice perché solo due in fondo? Perché ma i numeri? Perché uso un sacco la via e la Z. I numeri devi fare le combinazioni con i cursori. Su su giù fa uno. Su su giù giù fa due. Su giù giù fa tre. Ma no, quella è la fatality. Scusa. Avanti, avanti, indietro. Salto. Calcio. Esatto. Va bene, per cui se avete una stampante 3D che vi avanza per casa e non sapete cosa fare durante queste ferie estive che vi annoiate, che non potete andare a lavorare, nel senso, cioè, trovate qualcuno bravo che vi aiuti, ma avete anche un progettino ma a fare il Game Boy questo bravo vi deve aiutare. Poi te lo spiego, a te te lo spiego dopo. Ti volevo chiedere cosa facevi quest'estate, perché non posso, non fa. Vorrei chiudere, perché stiamo già superando il minutaggio, addirittura diciamo quello che ci prefiggiamo e non riusciamo mai a raggiungere. 6 minuti. No, i 30, stiamo già superando i 30. Abbiamo due ultime cose in scaletta, possiamo decidere. Vogliamo parlare di vodka o vogliamo parlare di convincere un dispositivo? Attenzione, non è facile, perché la vodka è vodka, eh. È una scelta difficile. Parliamo di convincere un dispositivo. Maledizione. Allora, raccontaci, allora, tu che ti sei... Matthew Garrett ha pubblicato sul suo blog. Lo conosco. Sì, ha un blog. Giornalaio. Ok. Ma è un fiorista, cos'è? Un idraulico? No, è il figlio di Peppa Concetta, di quella che aveva sposato il cugino della marita del fornaio di Torvalds. Esatto. Hai capito? Sì. Quello che abita all'angolo. Ho capito, esatto. all'angolo, quello alla rotonda, quello alto ma basso. Sì, esatto. Vai. Che partecipa allo sviluppo del kernel, oltre ad essere il cugino del fornaio di Torvalds. E ha pubblicato un articolo su come far sì che il proprio dispositivo Android faccia partire solo immagini di sistema operativo firmate da se stesso. Cioè, quindi il non dispositivo dalla... si firma? No. No, firmate non ad esempio da Google, ma da Matthew Garrett. E vabbè, ma io devo... il sistema operativo firmato da Matthew Garrett? Io devo andare dal signor Matthew Garrett che... Cioè, facendo il fornaio, nel senso, c'ha le sue cose da fare. Si alza presto la mattina. Cioè, perché non dai a farsi, scusi, mi può firmare il dispositivo? Se segui le istruzioni passo, poi il tuo no, perché usa Firefox OS. Il tuo dispositivo può far partire le immagini del sistema operativo solo firmate da te. Ah, adesso ci sono. Cioè, adesso, quindi, ho capito. Tu ti firmi le immagini... Esatto. E il sistema operativo le riconosce e fa partire solo quelle. Esatto. Quindi se domani mattina il mio telefono si dovesse aggiornare con un'immagine, per esempio quella di default del produttore, e non parte più niente. Non partirebbe più. E quindi butterei via il sistema. No, e quindi tendenzialmente per fare una cosa del genere devi poterti installare delle immagini. E a quel punto devi essere già in grado di ti installi già con le tue immagini. Questo è il modello con cui sarebbero utili i vari sistemi di sicurezza dei dispositivi. Vabbè, ma credo che Microsoft faccia così. No. Sì, se le immagini sono firmate da lei. Appunto. Vabbè, ma lei ha i suoi computer dispersi per tutto il mondo. Sì, ma... E quindi è giusto che lei li firmi. Comunque io trovo solo... Allora, l'idea la capisco e la trovo anche molto... Ah, no, io ho solo un problema. No, dimmi. Quando firmo l'immagine... Mi si graffia tutto il vetro del cellulare. Ma perché tu usi la stilo? Devi usare la Bic. Ma anche con la Bic mi si graffia. Ma no, ma c'è quella con la punta larga. E se non posso usare un pennarello? L'Uniposca. Userò l'Uniposca. Sì. Sembra l'idea giusta sullo schermo del cellulare. Sì. Grande idea, grazie. Scusa, non ci ho pensato. Guarda, sono qui apposta. L'unico problema di tutto ciò è che la procedura è semplice se sei uno sviluppatore del kernel. Aspetta. Semplice se sei uno sviluppatore del kernel. Probabilmente anche se sei utente Linux da una decina d'anni. Sì. Va bene. Se no. Comunque. Diciamo che questo modello, che sarebbe il modello naturale, non è molto supportato. Diciamo che vi troverete comunque sul nostro sito www.gl-com.it tutti i link alle notizie e alle musiche che vi abbiamo fatto anche sentire questa sera, e anche il link a questa notizia dove immagino saranno riportate le istruzioni. Sono riportate. E faremo anche le foto di noi che firmiamo i nostri dispositivi. Questa può essere una grande idea, cominciamo col tubo. Ecco. Allora, direi che, ridendo e scherzando, diciamo solo una cosa di vodka. Qual era quel comando che era bellissimo? Com'era il comando? Il comando era create index, nome dell'indice, using vodka. basta. E si sa che vengono, perché si parla di database, e si sa che fare gli indici, creare gli indici usando la vodka, secondo me non è una grande idea. Chissà cosa viene fuori, cioè tu fai un indice, no, tutto. Guarda che in Russia, cioè nel senso, e comunque la versione in Russia sono gli indici che creano te in Russia. Ah, ecco, di base non sei tu che crei gli indici. Va bene, con o senza vodka. Va bene, dicevamo. E in alternativa, se prima di usare la vodka si usava il gin. Vedi? È un passo avanti? Certo. Perfetto. Allora, noi vi lasciamo con... all'alcolismo. All'alcolismo, ma vi lasciamo anche con la canzone che è la canzone dell'estate 2014. Sì, perché vogliamo raccontare cosa c'è stato in quest'estate 2014. Pioggia. Ah, ecco. Allora, per la canzone... Per agevolare il nostro trapasso abbiamo deciso un suicidio di massa, un collettivo proprio con questa canzone. Tu dici così, ma tu sappi che ad agosto su tutte le spiagge d'Italia e del mondo questa canzone verrà suonata e ballata. Anche sussurrata. Pss, pss, pss. Uguale, l'hai fatta proprio uguale. Esatto. Noi vi diamo appuntamento a non si sa bene quando, direi a questo punto dopo l'estate, ci risentiamo. Ma non dire così, perché io ho saputo che ad agosto ci sarà una puntata speciale. Ah sì? The Special One. Va bene, fammi sapere quando la registri che io poi l'ascolterò. Che palle! Ma io ti troverò. Va bene, venimi a trovare. La canzone è dei... dunque, aspetta perché il nome non è facile. Brecule. Scusa, potrebbe essere letto anche Brecul, però non penso. Non credo. Non di penso. Dove sono questi qui? Penso che siano sudamericani. E quindi non è Brecul. No, e quindi è Brecule. Brecule, va bene. E la canzone è dal titolo Samba du Lago. Perché noi modestamente, se sambiamo, sambiamo sul lago. Per cui, perché così, sai, zona Como. E niente, saluti a casa. Volevi dire qualcos'altro? Salutare mamma, gli amici, le vacche dello Svizzero? Niente, va bene. Ciao. Ciao. Domingo tem rede, essa que na vizinha tem. Tem roupa no varal e alguém gritando no quintal por seu Jessé. O telefone, minha filha, atenda aí. Era Nadir, diz que o Pedrinho vem no fim do mês. Prepara a batucada e avisa a moçada que a folga acabou. O capa com seu samba americano vai desembarcar, e apesar do tom de texano, é bamba lá do Ceará. Quem não vai, não vem, quem não vier, deixa pra lá. Passa pelo Valnei, que tem sempre alguém tonto pronto a batucar. Meu irmão, traz uma cerveja, se não dá. Para se concentrar, arranja uma cremosa pra sambar. Esquece aquela rede, já não calha descansar. O samba tá droando e a moçada pra chegar. Quem disse que domingo não foi feito pra cantar, cantar? Domingo no lago, cachaça branca pra quem tem. Um bom samba de banco vem. Me espera que ainda volto pro jantar. Se o samba der, eu fico um pouco mais. Mas volto cedo, pois amanhã é de trabalhar. Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it. Chi non vai non vem, chi non viene deixa pra lá.